durata questa corsa fratricida. Siamo in gara per la nostra stessa vita. Gli avversari sono tanti, tutti uguali. Sono miei fratelli, ma ora siamo rivali. Il traguardo è molto arduo da raggiungere. Devo correre più forte se voglio vincere. Il percorso da seguire è tortuoso. Molti muoiono perché qui è pericoloso. Non c'è bronzo, neanche argento, solo oro. La medaglia ha una strana forma, sembra un uovo. Per vincere, ma il pericolo è in agguato. Proprio adesso cado a terra, sono spacciato. Il più scaltro dei miei fratelli mi ha superato.